Bordo Campo di Dario Ricci. Da grande allenatore del Milan dei record, della nazionale italiana, vice campione del mondo a Stati Uniti 1994, ad allenatore di una squadra di manager chiamati a guidare tutti i giorni le grandi aziende italiane. Così Arrigo Sacchi, appunto il grande allenatore del calcio italiano, invitato dal centro di formazione dei manager del terziario di Manager Italia e Confcommercio a parlare proprio ai manager italiani e a spiegare loro come si crea e come si gestisce un gruppo di successo. Ebbene, allora abbiamo incontrato proprio Arrigo Sacchi per parlare quindi di calcio e non solo a Bordo Campo. Allora, mister Sacchi, come si costruisce un gruppo vincente anche e soprattutto per i manager che seguono le sue lezioni? Beh, intanto si deve formare sempre una squadra, no? In un paese che non sempre è chiaro questo concetto. Fare una squadra che remino tutti nella medesima direzione sembra la cosa più semplice, ma invece non lo è. L'invidia, le gelosie, l'arrivismo, la furbizia sono tutti elementi negativi che vanno a intralciare un percorso naturale. Abbiamo poco il senso del collettivo, le stesse cose, le stesse tematiche che poi si trovano nel mondo del calcio, sia nel bene che nel male. Grosso modo il calcio non è altro che lo specchio della vita sociale, economica e politica del nostro paese, con i pregi e anche qualche difettuccio. Senta, uno dei grandi temi del sacchismo dal punto di vista calcistico era ed è l'esaltazione del collettivo e nel contesto del collettivo la gestione del talento individuale, no? Da questo punto di vista Sacchi è coerente con se stesso, cioè viene sempre prima il gruppo e che può esaltare l'individuo. Siccome si interpreta uno sport di squadra, chi non lo interpreta in questo modo secondo me è fuori da quelli che sono i criteri del gioco di squadra, e qui non è che 11 individualità possono formare una squadra. La squadra è un'interazione da massimo livello, sia a livello psicologico e poi dopo a livello di gioco, a livello di copione, a livello di collettivo. Poi in questo contesto è chiaro che il gioco, il collettivo aiutano il singolo ad emergere, a esprimere compiutamente tutte le proprie le qualità, talenti. Quindi avere dei talenti è importante, ma che vivano la realtà calcistica com'è, che non è uno sport individuale. Ma il Marco Van Basten, giocatore che con questa filosofia non andava poi tantissimo d'accordo, da allenatore magari l'ha ricontattata e gli ha detto: Arrigo, avevi ragione tu. Non è che lui non andasse d'accordo, perché loro hanno un concetto dello sport corretto. Io ero molto esigente e chiedevo a lui di fare certe cose, quindi, ma comunque lui mi ha detto proprio, devo dire poco tempo fa, che adesso ha capito tante cose. Si impara sempre nella vita, no? Lui poi è un ragazzo intelligente, un grandissimo giocatore, quindi credo di essere in debito, non in credito. C'è un episodio in particolare che utilizza in questi incontri con i manager per esemplificare questo concetto di gioco di squadra, tratto insomma da quella che è stata la sua carriera in panchina. Di Van Basten, che per esempio mi chiese una volta perché lo trattavo come gli altri, e lei cosa avrebbe risposto? Perché siamo una squadra, e quindi se incomincio a trattarti in un modo diverso rompo l'armonia della squadra e non è più una squadra. Oppure Gullit, che un giorno, pallone d'oro è come l'Oscar nella cinematografia, disse: io sono contento di lottare, prendere anche colpi, correre per i miei compagni. Sembra una frase semplice, lo è in effetti, però nel nostro mondo in cui non siamo abituati in questo modo, dove il talento gli è permesso in generale tutto, il talento si salva sempre, la squadra che non vince. La squadra vince quando il talento gioca con la squadra, per la squadra, quando il talento è disponibile, ha passione, quando ha generosità, allora la squadra vince. E non solo sfrutta le qualità del talento, ma le amplia e le esalta. Se invece il talento fa il solista, in quel momento si va contro quelli che sono i criteri di un gioco di squadra. All'inizio di questa chiacchierata sottolineava come il calcio sia una metafora dei vizi, delle virtù, della vita, Direi anche in Italia, anche di alcuni aspetti del nostro paese. Spesso si rimprovera al mondo del lavoro, anche del management italiano, di essere poco meritocratico. Da questo punto di vista, il calcio è uno specchio, ha qualcosa da insegnare, visto che poi il verdetto del campo è spesso inappellabile, o anche lì ha trovato No, dei vizi. E la squadra la fa sempre l'allenatore. beh, non si può generalizzare, altrimenti si fa del qualunquismo. Io credo che una società che rispetti i ruoli, che rispetti i collaboratori, ne avrà di conseguenza il massimo delle capacità di queste persone. Non sempre ci sono società positive, dirigenti positivi. In loro prevale la smania di apparire tante volte. In quel momento io credo che dovrebbero essere leali e esonerare l'allenatore se non sono soddisfatti, oppure fare loro l'allenatore. No, a me non è mai capitato. E senta, altro tema che caratterizza il nostro sistema paese è quello della fuga dei cervelli, no? Molti talenti che non trovano in Italia il giusto spazio per essere valorizzati e quindi scelgono l'estero. Lei che è comunque stato grande gestore di uomini e di campioni, come vede questo fenomeno? In un calcio che invece è sempre più globalizzato e che sembra non aver paura di perdere certe radici. No, Parla del calcio, parlo del sistema Italia, perché. ma il paese è un paese sicuramente in difesa in questo momento. D'altronde sono 2000 anni che siamo in difesa. Dall'epoca dei Romani abbiamo quasi sempre giocato in difesa. Ogni tanto c'è qualche eccezione. Io quando tenni una conferenza 3-4 anni fa in Inghilterra, agli allenatori della Premier Division e Premier League, la prima domanda che mi fece l'allenatore attuale del Manchester City, Hughes, che era stato anche giocatore del Manchester United, allenatore del Galles, in quel momento era allenatore del Galles, mi disse: come ha fatto lei a far correre in avanti i giocatori italiani che da sempre corrono solo indietro? E come ho fatto? Fatto sfruttando quelle che sono le componenti che esistono nel mondo del calcio e anche in quello del lavoro. L'ambiente, un ambiente positivo, dei talenti disponibili, funzionali al progetto, complementari che avevano passione e disciplina, e uno staff tecnico che ti proponeva un copione coinvolgente, emozionante, divertente, faticoso, con una società che ti aveva dato delle coordinate chiare, degli indirizzi molto chiari, e quindi in questo ordine, in questa serenità, in questa tranquillità, in questa collaborazione, dove c'era il rispetto dei ruoli, dove nessuno attentava a togliere autorevolezza all'altro. In un ambiente così positivo era chiaro che avremmo fatto il massimo delle nostre possibilità e dovevamo una sola certezza, che si poteva sempre fare di più e meglio. Non c'era un obiettivo preciso, il nostro obiettivo era dare il massimo, fare il massimo di quello che potevamo con impegno, serietà e collaborazione e generosità. E chi non stava a queste regole andava fuori. Arrigo Sacchi e lo stress, lei è stato anche uno dei pochi forse che ha ammesso in maniera esplicita che il troppo stress nel mondo del calcio era diventato per lei difficilmente gestibile, quindi era per molti aspetti meglio finirla lì, no? Ecco, questa esperienza trasmessa oggi a questi manager che sono chiamati a gestire situazioni spesso altrettante difficili sotto il punto di vista psicologico e emotivo, cosa le ha lasciato e come la trasmette? Allora, qui ci si è creata una grande confusione. La confusione è stata questa, che è difficile spiegare a delle persone che percepiscono degli stipendi normali che uno che percepisce degli stipendi non normali se ne vada. E allora hanno cominciato a dire che, non l'ho detto io mai, hanno cominciato a dire che era per lo stress, no, era che non ne avevo più voglia. Cosa voleva dire questo? Voleva dire che io ho sempre fatto questo lavoro, il mio obiettivo non erano i soldi e neanche il successo, era il divertimento di fare questo lavoro. Posso dire che avrei pagato di tasca mia, mi facevo pagare unicamente perché così avevano più pazienza e anche più rispetto. Ma nel momento in cui le tensioni c'erano, ma quelle tensioni le ho sempre utilizzate come plusvalore, lo stress è una compagna sgradevole per molti, ma se utilizzata in, e lo, se lo, utilizzato lo stress è incanalato nel modo giusto, è un plusvalore, è un qualche cosa che ti dà una forza agonistica, intellettiva e anche fisica superiore. Quindi è una componente che io conoscevo benissimo e che ho utilizzato per tanto tempo. Non l'ho più voluto utilizzare nel momento in cui il calcio non mi dava più le emozioni che mi dava prima. Avevo vinto un po' quasi tutte le scommesse da quando avevo iniziato in seconda categoria, che dicevano che non potevo allenare la seconda categoria. E ogni categoria che facevo dicevano che chi è questo sconosciuto, chi è questo signor nessuno. Vinte tutte queste sfide che hanno durato però la bellezza di quasi 30 anni, quindi non è che sia stato proprio un giorno, a un certo momento ho visto che quando vincevo non mi dava più nessuna soddisfazione e mi erano rimaste solo le tensioni, le notti insonni, i dubbi precedenti. Allora ero al Parma, mi ricordo, ritornai e mi capitò questo, mi era già capitato la telecomunità. Ritentai come tutti quelli che sono dei fumatori incalliti perché io amo poi il calcio. E però non avevo gioia, non avevo, e ho detto allora chi me lo fa fare? Perché devo, la qualità della vita per me viene prima di tutto, quindi prima avevo sempre queste tensioni, ma nello stesso tempo avevo delle soddisfazioni nella vittoria così grandi che mi ripagavano abbondantemente, e quindi il conto mi tornava. Io ho fatto le scuole di ragioneria, quindi so fare bene i conti. E quando ho visto che invece i conti non mi tornavano, siccome non ho mai fatto nulla per i soldi, altrimenti non puoi essere un innovatore. I soldi condizionano in maniera tragica. Mi telefonò Berlusconi quando andai via dal Parma e lui mi telefonò e mi dice: Arrigo, rimanga, vincerà qualche partita, perderà qualche partita. Io dissi: Ma non mi diverto più, non ho più emozioni. Io non ho mezze misure, o è bianco o è nero, non è grigio. E lui mi dice: Sì, la capisco, noi siamo così. Capita in una carriera di 30 anni di perdere poi un mondiale per un calcio di rigore. È una situazione che può capitare anche a un manager, no? Di non centrare esattamente l'obiettivo, Però auguro a tutti i fissato. manager di arrivare secondi nel mondo. Io credo che ci starebbero quasi tutti, se gli augurassi questo. Lei cosa dice? Io ho vinto tanto, non mi interessava più di tanto. Quando uno fa le cose con il massimo delle sue capacità, quello che verrà, verrà, va già tutto bene. A bordo campo. Fuori forma, suono in una boy band, suono in una boy band, ci deve essere un errore, soffro lo stress. Poco prima di entrare in acqua mi prendono delle crisi d'ansia e non riesco più a respirare, non riesco a controllarmi. Sorprende sempre la nostra Federica Pellegrini. Un giorno la paura di scendere in acqua, il giorno successivo il record del mondo dei 200 stile libero. Insomma, atleti che si dimostrano campionissimi, ma anche risorse complesse da gestire, non solo sotto il profilo fisico, ma anche sotto quello psicologico. E allora oggi a bordo campo abbiamo ospite il professor Daniele Popolizio, responsabile del progetto Sport dell'Unione Europea. Psicologo dello sport che cura e lavora direttamente a stretto contatto con Federica Pellegrini. Beh, professor Popolizio, direi lavoro complesso ma che sta dando grandi risultati in acqua, visto quello che dice il cronometro. Diciamo che sì, stiamo cominciando a raccogliere già da prima delle Olimpiadi tutto il lavoro che si è fatto sin da quando questa atleta è arrivata al Circolo Canottieri. Stiamo avendo sicuramente un riscontro positivo perché al di là di singoli episodi, di singoli accadimenti che fanno parte delle difficoltà di una carriera sportiva, comunque sicuramente stiamo raccogliendo quello che ci eravamo programmati. Quello che colpisce di Federica è questa che lei ha confessato essere in qualche modo una sua paura in alcuni istanti, in alcuni momenti particolari delle competizioni, no? Quasi fosse una paura di tuffarsi in acqua. Ecco, professor Popolizio, ci aiuti a capire quali sono le dinamiche che scattano nella mente della nostra campionessa in queste situazioni così particolari e come voi poi intervenite per gestirle al meglio. Beh, intanto ognuno di noi ha un istinto di conservazione di se stesso, no? E quindi fondamentalmente ogni volta che nella nostra vita in generale, quindi anche nello sport, ci accade qualcosa che mette a repentaglio la nostra salute o comunque la nostra incolumità, laddove l'incolumità è comunque un costrutto e una dimensione anche psicologica, no? Percepita, è chiaro che tendiamo a rispondere inizialmente con dei meccanismi, diciamo, più che altro di tipo difensivo. E questo accade anche nel mondo dello sport, quindi degli sportivi, e sappiamo tutti che adesso nel caso specifico stiamo parlando di Federica, però accade un po' a tutti gli sportivi nel corso della loro carriera il famoso infortunio, no? Ecco, l'infortunio può diventare a tutti gli effetti un trauma da sport, così come noi abbiamo, non so, nelle nostre relazioni affettive oppure in un incidente stradale, situazioni, diciamo, di shock, di trauma. Questo nel mondo dello sport viene assorbito dal punto di vista dell'infortunio. E allora, quando accade un infortunio nella carriera di uno sportivo, entriamo nella famosa dimensione della psicologia dell'infortunio. La cosa molto importante è riuscire a andare a cogliere quali sono stati gli elementi che hanno messo in difficoltà, come la nostra mente ha registrato l'accadimento, e di conseguenza poi si va a intervenire. Quindi diciamo che il punto di riferimento per quanto riguarda Federica Pellegrini è quel famoso pomeriggio di Genova sul finire dello scorso anno, quando tuffandosi appunto in acqua nella gara dei 400 lei ha avuto un malore molto significativo, tant'è che si è arrestata a metà gara, è uscita dalla piscina ansimante, si è sdraiata a bordo vasca e ha percepito poi quello che è stato poi identificato anche come una forma d'acqua. Asma da gestire, da curare. È quello un po' il momento con cui Federica ogni volta deve fare i conti quando è poi sul blocco di partenza. Diciamo che quello è stato il momento dell'infortunio, come lo abbiamo chiamato, no? Faccio l'esempio anche di un altro noto atleta, Totti, quando prima del campionato del mondo, che per lui era molto importante, lui aveva avuto un infortunio importante proprio in un momento in cui era in un ottimo stato di forma. Quell'infortunio se l'è portato dietro al campionato del mondo, perché anche se aveva recuperato dal punto di vista fisico, sicuramente c'era un condizionamento di tipo psicologico. Nel caso di Federica non è ancora così, in realtà ci troviamo di fronte a un atleta che ha già raggiunto tantissimo, un atleta vincente, è molto giovane. È chiaro che, ripeto, nella carriera di uno sportivo ci sono degli accadimenti e degli eventi che fanno da ostacolo. In questo momento abbiamo scelto un pochino tutti quanti di lasciare stare un attimo i 400 e vedere, perlomeno per il momento, e finché non risolviamo il problema, e sicuramente, insomma, lo risolveremo. Come va a intervenire lo psicologo dello sport in queste situazioni specifiche? Per recuperare in fretta e bene è necessario capire che tipo di esperienza è stata significativa dentro all'atleta, dentro alla persona. Cioè, in altre parole, l'accadimento come è stato sia registrato a livello di sistema nervoso e quindi a livello anche mentale, sia come è stato interpretato dall'atleta stesso. Quindi, al di là del fatto oggettivo di quanto pericoloso sia stato l'incidente, l'accadimento, conta molto di più quanto è stato percepito come pericoloso dall'atleta stesso, per, ripeto, quella dimensione psicologica che è la propria incolumità. È come se, appunto, come lei diceva, noi subissimo un incidente stradale di pur lieve gravità, ma dal punto di vista emotivo lo percepisco, ci tocca esatto, in modo particolarmente significativo. Ecco lì che allora il dato, l'evento di per sé diventa più importante. Esattamente, e quindi richiede un intervento più significativo per andare a gestire quella tensione emotiva che questo episodio, magari pur lieve, ha provocato, no? Sì. Le chiedo un'altra cosa che ci incuriosisce delle prestazioni di molti campioni, ma anche della stessa Federica Pellegrini, è la sequenza di questi risultati, perché spesso, come è accaduto a Genova, come è accaduto a Riccione, in un giorno c'è questo momento di panico che quasi blocca l'atleta, il giorno dopo arriva subito il risultato importante, straordinario. Come vi spiegate questa reazione? Beh, intanto ce la spieghiamo perché non è corretto quello che è stato riportato nei giorni precedenti. Non si trattava né di ansia né di panico. Si trattava di una scelta, di una risposta di fronte a una sensazione, come è stato detto anche nei comunicati stampa, di malessere. Si è preferito non fare la gara da parte dell'atleta, tra l'altro scelta condivisibile. Non è nell'arco di singoli eventi o di singole giornate di gara che si valuta la condizione mentale di un atleta e soprattutto la forza psicologica di un atleta, ma la si valuta all'interno di una intera competizione sportiva, quindi faccio l'esempio un campionato del mondo, un campionato europeo, e la si valuta soprattutto all'interno di una stagione sportiva intera. Non è stato corretto quello che è stato riportato, a maggior ragione, quindi è chiaro che la risposta sembra più forte di quella prevista. Mi sembra un altro caso invece quello di Lor Manadou, che è proprio di Federica Pellegrini e delle nostre campionesse del nuoto, è stata una accesissima rivale in vasca e non solo, e che invece quest'anno ha deciso di concedersi un anno sabbatico rinunciando ai mondiali di Roma dopo un paio di stagioni deludenti, Olimpiadi di Pechino comprese. Professor Popolizio, rivedremo Lor Manadou in vasca protagonista? Allora, io penso di sì. Diciamo, io credo che non sia un abbandono definitivo, credo che abbia fatto bene se non si sentiva nella condizione di gareggiare o diciamo di avere quella forza motivazionale che poi è indispensabile per qualsiasi risultato di alto livello. Le persone hanno delle risorse dentro che non conoscono, il talento ognuno ne ha uno ma non tutti lo tirano fuori, ma quando in realtà creiamo dentro lo stato interno ottimale per tirare fuori il nostro massimo, questo può avvenire per ognuno di noi. Problemi nel gestire la sconfitta, immagino, da parte di molti atleti, problemi nel gestire la vittoria, problemi anche nel gestire il trionfo, e alludo al caso di Michael Phelps che pur a Pechino ha trionfato, ha riscritto il libro dei record e albi d'oro, 8 medaglie d'oro, 7 record mondiali, ora sospeso per 3 mesi per aver fatto uso di marijuana in un party. Sotto il profilo psicologico il caso Phelps come va letto, professore? Sicuramente ha avuto una scivolata, però entrando in un merito un pochino più scientifico, io non credo che si possa parlare assolutamente di non gestire il successo, non ci sono elementi per dire che le due cose siano ancora correlate, lo potremmo dire nel caso di atleti, non so, mi viene in mente la tennista Martina Hingis, che ebbe un paio di stagioni un pochino travagliate, arrivò a una famosa finale di Roland Garros contro Steffi Graf e ebbe una crisi di nervi dove poi buttò la finale e perse di fronte al pubblico non solo quella finale ma forse anche se stessa, tant'è vero che poi non vinceva più partite e è arrivata al ritiro. Poi ha provato un ritorno nel tennis e non è andato a buon fine come lei pensava. Ecco, allora lì parliamo invece di una crisi da successo. Nell'orologetto perfetto di quell'atleta si è rotto qualcosa. Non credo che quello dell'americano possa essere ancora etichettata come tale. Professore, ringraziandola per questa chiacchierata, mi conceda una battuta. Sì. Alla fine forse ha fatto bene Filippo Magnini a fare qualche mese sull'isola dei famosi, staccando dalla piscina per ricaricare un po' le pile dal punto di vista nervoso e ritrovare nuovi stimoli. Saranno solo i risultati poi, no? A confermare se è stato corretto o no. Ogni atleta sceglie e trova poi delle proprie vie di scarico, di ripresa dallo stress psicofisico enorme che è rappresentato da un'Olimpiade e ancora prima da un campionato del mondo, soprattutto per un atleta come lui che già è stato 2 volte campione del mondo, non ce lo dobbiamo scordare. Quindi arriverà ai mondiali di Roma che è ancora il campione in carica. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia, vi ricordo che potete scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e riascoltarci dal sito internet www.radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.